storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera e ben sintonizzati su queste frequenze per ascoltare e stare un'ora in compagnia con questa trasmissione dedicata alle terre venete. Saluti solo da Gesi per il momento, perché Antonio arriverà con il secondo ospite. E intanto, abbiamo due ospiti stasera. Avremo il dottor Tony Basso e avremo il nostro tabarro Tiziano Spigariol. Ma prima di tutto cominciamo con la prima canzone in programma. Allora, la prima canzone è intitolata Serenata ed è cantata da Toto Cutugno. I ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Affacciati alla finestra, bella amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Ed eccoci di nuovo in studio ed è il momento del primo ospite di stasera. Caro dottore, bentornato anche stasera. Bentrovata. Per la solita lezioncina di storia di Treviso. Beh, più che una lezione, è una chiacchierata sulle cose del passato della nostra città e del nostro territorio. Io tante cose non le so, quindi per me è tutta una scoperta. Di cosa ci parlerà stasera? Beh, io direi di collegarci a quanto è stato detto l'ultima sera in cui ci siamo incontrati, che abbiamo parlato dell'industrializzazione, della proto-industrializzazione, là dove abbiamo parlato dell'invenzione della stampa e quindi della diffusione delle idee, che è stata un elemento forse più sconvolgente ancora della scoperta dell'America, che viene preso come pilastro che segna il passaggio dall'età media all'età moderna. E quindi abbiamo accennato alla scoperta dell'America. La scoperta dell'America è stato un elemento importante per lo spostamento, ne abbiamo parlato la volta scorsa, dei traffici commerciali che dal Mediterraneo si sono spostati verso l'Atlantico e quindi sono diventati punti di riferimento importanti tutte le coste, soprattutto dell'Olanda, del Belgio e della Spagna naturalmente e del Portogallo, per cui le rotte mediterranee sono andate decadendo e la Repubblica di Venezia ha investito i propri capitali soprattutto dal commercio all'agricoltura. Stata con forte, l'agricoltura però, ecco, dall'America è arrivato però qualcosa. Cosa è arrivato? È arrivato per esempio il mais, che era un prodotto sconosciuto che è diventato il pane quotidiano dei nostri contadini, perché veniva coltivato in maniera abbastanza semplice e non c'era bisogno di un accudimento continuo, però aveva i suoi limiti, perché un'alimentazione fatta soltanto di polenta e di qualche ortaggio e degli animali da cortile per i nostri contadini non era una cosa molto equilibrata, e non era non solo per i contadini ma neanche per i cittadini, che però potevano attraverso il mercato procurarsi, i mercati erano soprattutto mercati ambulanti che si svolgevano alcuni giorni della settimana, a Treviso il mercato una volta c'era soltanto un giorno alla settimana ed è nel 600 che la città ottiene la possibilità di fare il mercato due giorni alla settimana e quindi c'è la possibilità di approvvigionarsi di vivande diverse che vengono dalla campagna, certo, che vengono e anche di strumenti. Scusi, ma il mercato è sempre stato lì o era in un altro posto? Beh, il mercato. La zona mercato era. Sì, una volta c'erano le fiere che si facevano alla fiera, la località appunto. Sì, era il mercato sì. annuale, quello lì era, però la zona del mercato era intorno alla città, all'acquisizione della piazza. Il Borgo Mazzini era quello che è la zona del mercato, l'acquisizione successiva di quella che oggi noi chiamiamo Piazza Matteotti, che una volta si chiamava Piazza del Grano, è stata un'acquisizione ottocentesca perché lì c'erano delle case e è stata creato questo grande spiazzo e lì venivano venduti i semi per le colture, quindi il grano per la semina del frumento. Abbiamo parlato di industrializzazione e l'industrializzazione passa attraverso la conoscenza delle notizie, la stampa ha avuto il suo peso e nel Settecento, il secolo che viene comunemente chiamato il secolo di illumini, l'illuminismo è questa diffusione delle conoscenze tecniche ma anche naturalistiche, rompe una barriera diciamo un po' che chiudeva, che restringeva gli orizzonti scientifici e culturali, a volte invocando anche elementi di carattere religioso. Galileo ne ha saputo qualcosa, ha avuto le sue con queste chiusure di orizzonte. Nel Settecento invece queste barriere tendono a cadere e la diffusione delle conoscenze arriva al punto da produrre anche un'opera di carattere enciclopedico, l'enciclopedia appunto che in Francia è stata prodotta da Diderot e da Lambert, che è come dice il termine che noi usiamo ormai, è una summa di notizie e di immagini che danno l'idea di come come è fatta la natura, dai minerali alle piante, agli animali, al corpo umano, sì, ma dopo sì, dà ci anche, spiega tutto, ci spiega abbastanza. Dà anche le informazioni, certo, su come funzionano le macchine, come, e quindi questo, questo prodotto arriva nelle mani di imprenditori intelligenti, accorti, acuti, e se ne servono, si servono di queste immagini, di queste illustrazioni, di queste spiegazioni anche, che sì, ci sono, per imparare a costruirsi queste nuove macchine, e quindi possono sorgere delle piccole attività industriali, piccole, che poi magari aumentano e diventano anche grandi ed importanti, per cui alla fine del Settecento si avvia veramente una rivoluzione industriale che trasforma il modo di vivere della gente, che non è più legata solo all'agricoltura ma anche all'attività industriale. Nell'Ottocento poi noi abbiamo che la disponibilità nei centri, nei grossi centri abitati, come poteva essere Treviso, di servizi ha consentito l'accentramento di queste industrie in prossimità della città. La città, al di fuori delle mura, era stata fatta ancora da Fra Giocondo la famosa spianata, cioè erano stati abbattuti tutti gli edifici e tutti gli alberi che erano intorno alle mura per tenere sotto controllo il territorio circostante, per evitare assalti improvvisi nei confronti della città. A questo punto quindi c'era il deserto intorno alla città, sì, ma ed è proprio approfittando di queste zone desertiche nel senso di non occupate da abitazioni, da costruzioni eccetera, che vengono utilizzate per l'impianto delle industrie, ecco, nell'Ottocento. Le prime industrie cos'erano? Delle macchine? Beh, sono sorte industrie di tutti i tipi, dalle produzioni di laterizi, pensiamo per esempio nella zona fuori Porta Santi 40 ad Appiani, che è questo industriale lombardo che viene da Milano e si mette a costruire questi laterizi, tegole, mattoni eccetera, per l'edilizia. Ma poi per esempio un'altra attività che era quella del materiale edilizio, non c'era ancora una volta nel cemento, nel ferro usati per, e quindi i materiali edilizi erano soprattutto il legname. Quindi la Piani era una industria vecchia? Eh sì, della sì, metà dell'Ottocento, ah, ecco, si insedia a Treviso, sì, poi c'erano ferriere, c'erano le pilature di riso, eccetera, insomma ce n'erano nella zona tutto intorno a Treviso. Parlavo prima del materiale edilizio costituito dal legname, e fuori Porta Carlo Alberto, dove c'era, si sta ricostruendo l'istituto Zalivani, sì, dietro c'era il Bruniera, che era un grande deposito di legname, e quindi i travi per costruire le case i solai dei vari piani, e anche il legname poi per i pavimenti, per le coperture delle case, e quindi era dietro c'era questo diciamo capannone industriale, se così possiamo dire, e davanti si era costruito la villa, che poi è diventata la villa occupata dall'istituto Zalivani, sì, sì, dietro poi lo stabilimento del Garbuio, del Bruniera, è stato sostituito quando è arrivato Garbuio a costruire gli essiccatoi, ecco, i pastifici anche, che sono sorti intorno alla città, hanno consentito con l'utilizzo degli essiccatoi fatti da Garbuio la produzione di pasta da esportare secca, quindi seccata attraverso gli essiccatoi, confezionata ed esportata fuori del nostro territorio. Quindi c'è stato, una volta anche, le famiglie le facevano in casa la pasta? Una volta si faceva in casa, ma poi è sorta la necessità, l'opportunità di allargarsi, avere già la pasta fatta, andarla a comprare dal pizzicagnolo, dall'alimentarista, e quindi servirsi la pasta, il riso e altri prodotti, e questo ci ha portato alla disponibilità di attività industriali all'interno della città. Un altro elemento importante è stata l'utilizzo di quelle antiche fonti energetiche che sono state il fuoco per la lavorazione dei metalli, sì, e per la cottura delle ceramiche, dei laterizi, e l'acqua per l'attivazione delle ruote idrauliche. Acqua e fuoco messi insieme hanno dato luogo alla creazione della macchina a vapore. La macchina a vapore è stata anche questa una invenzione rivoluzionaria, creata in Inghilterra, ma dopo rapidamente diffusasi dappertutto, perché ha permesso la produzione di energia motrice anche dove non c'era l'acqua, e quindi la possibilità del sorgere di attività meccaniche, industriali, eccetera, anche al di fuori e lontane dai corsi d'acqua. Quindi non c'era più bisogno di avere la ruota che attivasse le macchine. Io volevo fare una domanda. Lei parlava prima del riso. Cosa facevano al riso? Perché io sono nata nelle risaie. Ecco, il riso, a differenza del frumento, ha una quando viene raccolto, sì, il frumento e viene trebbiato, i grani, i chicchi, sono pronti per essere lavorati, per essere fatti farina, mentre per il riso c'è una grandissima quantità di materiale coriaceo che deve essere separato, e quindi c'erano dei pestelli azionati appunto da una specie di mortai attivati sempre dalle ruote idrauliche, sì, che frantumavano queste scorze, diciamo, sì, noi, del riso, e così veniva poi depurato di quella che era la pula, in modo da ottenere il chicco pulito. E naturalmente c'erano dei crivelli e dei getti d'aria sempre attivati da queste ruote idrauliche per soffiar via la pula dal riso e così ottenere il prodotto per l'alimentazione. Ma a Treviso ce n'erano moltissime, famosa è stata la Pila Rosada, che si trovava dove adesso c'è il deposito degli autobus in via Marchesan per andare verso l'ospedale, sì, e attingeva la sua forza motrice proprio del canale della polveriera. Perché non avevate voi risaie vicino? Per questo che no, le risaie invece c'erano, perché, perché tutta la bassa pianura trevigiana è stata soggetta a bonifiche, ma a ridosso della laguna tutte quelle zone che adesso sono bonificate, ma lì era il terreno ideale per la cultura del riso, tant'è che i risotti erano uno dei piatti abbastanza comuni, tradizionali della nostra cucina. Sì, pensavo anch'io il riso, sì, siamo abituati a pensarlo alle risaie e noi del abbiamo Piemonte, le risaie del Mantovano, eccetera, ma proprio la bassa trevigiana, la zosagna cosiddetta, a ridosso della laguna, era ricca di culture di riso, e quindi il riso era uno degli elementi consueti della cucina trevisana. Una volta c'erano le donne che andavano a raccogliere il riso, che andavano le mondine, sì. Adesso invece fanno tutto con le macchine. Ormai anche l'industria ci ha portato, sì, anche a questo, sì. E dopo sarà il caso appena di accennarlo, ma l'invenzione della macchina a vapore ha consentito di creare quella macchina che serve a trasportare le cose e le persone, e quindi la caldaia a vapore ha dato luogo al treno. Sì. Mezzo rivoluzionario, perché intanto la velocità non è più quella dei carri a trazione animale, il rifornimento per il treno si fa una volta alla partenza e dura per sempre, mentre l'animale bisogna dargli da mangiare, bisogna farlo riposare, poi la strada è una strada liscia di ferro, per cui si chiamano ferrovie, e non è la strada piena di rischi come era una volta la strada che dovevano percorrere i carri terrainati dai cavalli, perché era tutta strada non asfaltata, sicuro, come adesso. Certamente, cioè, no. E beh, treni a vapore ci sono stati per tanto tempo, però. Beh, ancora adesso, certamente, però poi la costruzione di strade confortevoli, larghe, comode, e la invenzione dell'automobile e quindi l'applicazione del motore a scoppio nei mezzi di trasporto delle merci e delle persone ha fatto sì che la strada e il trasporto cosiddetto su gomma ha fatto la concorrenza a quello su rotaia, per cui adesso c'è una capillarizzazione delle industrie in tutto il territorio, indipendentemente dalla presenza di una strada ferrata. Lei mi parlava anche del treno, cioè i primi treni erano Milano Portici, no? Che sono sorti i primi treni. Napoli Portici, sì. Sì. E poi c'era anche. Dei primi, sì, è stata proprio la ferrovia voluta dall'Austria durante l'occupazione del Lombardo-Veneto per collegare le due capitali del Lombardo-Veneto, Milano e Venezia, con la capitale imperiale Vienna, e quindi il treno è arrivato a Treviso a metà dell'Ottocento e poi la linea si è prolungata verso Vienna. Li chiamavano treni accelerati, no, si ricorda, anche sì, dopo il Novecento è durato parecchio quel treno così, che era piuttosto lento. Adesso abbiamo le frecce verdi, rosse, argentate, tutte queste frecce, ma una volta i poveri dovevano servirsi dei treni accelerati con quelle carrozze, mamma mia, di legno, si ricorda lei, non so. Sì. Comunque, io mi ricordo proprio dei treni che andavano a carbone, che si scendeva dal treno con tutti i vestiti abbastanza neri. Sì. Comunque, vabbè, dottore, anche stasera dobbiamo finire qua, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io la ringrazio perché per questa stagione è l'ultima delle sue trasmissioni e preghiamo Dio che ci diano anche la possibilità di farle in futuro. Di ritrovarci, ecco. Ancora. E intanto noi siamo arrivati ai tempi moderni. Quasi, sì. Io la ringrazio ancora e speriamo di rivederci presto. Bene. Buone cose a lei. Buonasera. E a coloro che ci ascoltano. Ringraziamo di nuovo il dottor Tony Basso e andiamo con la seconda canzone in programma, che è cantata da Renato Zero ed è Il Carrozzone. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, truccate di malinconia. Tempo per piangere, no, non ce n'è. Tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte la paura. Che t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti da sé. Eccoci di nuovo in studio ed è arrivato anche il nostro Antonio con il secondo ospite della serata, che è il signor Tiziano Spigariol da Sottabaro. Buonasera a tutti, buonasera Tiziano. Buonasera. Ciao Antonio, ciao Jessy, Tiziano, ciao. Allora, sei arrivato proprio giusto, bello, bravo. Sì, tranquillo, bravo. Ma anche se un po' trafelato, ma se non si sa che le cose vanno fatte così, noi abbiamo energia da vendere, quindi nessun problema. E nostro Tiziano, come stai Tiziano? Tutto bene. Allora, stasera ci parlerai dell'estate, vero? Dell'estate, sì. Mm-hmm. Sai che l'estate è alle porte ormai. Eh sì. A parte che c'è un'umidità tremenda in giro, vabbè, non importa. La stiamo aspettando, ma verrà. Tu pensi che verrà? Sì. È il caldo, il freddo non va mai a nessuno. Ah, pensi che verrà? Anche l'estate verrà. Sarà umida? Come? Non lo so, forse solo il buon Dio lo sa. Noi possiamo sono solo molto attendere. Più umano. Possiamo solo attendere. Allora, sì. Cosa succede in campagna in questo periodo? Beh, allora, dopo le erbe spontanee di primavera, l'estate è qui, perché i primi avvisi si vedono dal biondeggiare dell'orzo. E fra una quindicina di giorni sarà pronto anche il frumento. Io sono nato quando chi batte a frumento, quindi sì. Sei in piena estate. Sei di giugno? Sono di giugno. Sì, e quanti? Gemelli, l'11. 11. Come Antonio? Come me. Insomma, beh, io sono il 12. Idem sentire. Beh, insomma, dico, i migliori sono nati. I migliori sono nati qua. In un periodo. Sì. Da prossimo 3 siamo in 6, 7, 8 qua oggi, eh? Così sì. Allora. Allora, grande fervore, è la stagione della lacre fare, soprattutto per quanto riguarda l'orto, che è sempre stata una grande risorsa della famiglia. La buona insalata, i buoni pomodori. Diciamo piselli, cipolle, aglio, biete, cappucci, sedano, carote, prezzemolo, fagiolini, fagioli borlotti e del papa, pomodori, peperoni, melanzane, citrioli, anguri e meloni. È il profumo che si sente quando entri nell'orto. Esatto, e poi ho l'impressione che è corroborata dai fatti, che ci sia un ritorno straordinario agli orti domestici, intesi anche come fazzoletti di terreno molto molto piccoli, che possano, come dire, ripristinare sapori, profumi di un tempo. Non so se sia una mia sensazione. E saper fare. E poi i fiori dell'orto. I fiori dell'orto. Dei quali sì. Nessuno parla più. Esatto. Le dalie, le zigne, perché i fiori spontanei, viole, margherite, fiori del pisacan, eccetera, li abbiamo goduti già in primavera. Quali sarebbero i fiori del pisacan? Il tarassacco. Il fiore giallo. E nelle case di campagna c'erano sempre sul bicchiere, siccome sono tutti fiori a gambo corto, sì. Nel bicchiere, sopra la tavola o sopra la credenza, questo mazzolino misto di fiori che era la nuova vita dopo il niente apparente dell'inverno. Esatto, pur nelle ristrettezze c'era questa volontà, sì, di ornare, di dare un pochino di vivacità al desco praticamente. Però gli orti domestici sono sempre stati, quei piccolini, magari io ricordo insomma che anch'io un tempo avevo un piccolo orticello. Sì, sì, adesso c'è un'urgenza di riprendere forse queste tradizioni, certo, proprio a parte per le necessità evidentemente, ma anche credo io per una istanza superiore. Per trovare nuovi credo. Esattamente, per un'identità diciamo che ripristini le radici che, esatto, sembra abbiamo perso. Io invidio chi vive in campagna perché sente tutti i passaggi delle stagioni con profumi, con, ecco, quella scansione naturale, sì, giustamente. Sì, invece... io vorrei ricordare però una cosa, che la campagna non è solo poesia, ma è anche grande lavoro, grande sudore. Duro lavoro, sì, esatto. Perché tenere un orto comporta non solo tirar fora le gombine, come si dice, e poi seminare o piantare le piantine, ma poi cavar l'erba, sapar, rasar, darghe acqua e spetar. Spetar, ecco. Spetar che cresca. Allora, io direi che oltre a quanto si diceva prima, questa è una grandissima lezione. L'attesa, noi non siamo più abituati alla pazienza. Tutto, esatto, subito. Tutto subito. Esatto, no? E lo vediamo per esempio che fine hanno fatto i vecchi sarti. Nessuno più ha imparato, sì, il mestiere. Purtroppo. Perché uno ormai è abituato ad andare, vedere e portare a casa. Più che un lavoro, un'arte praticamente. Però comportava una scelta da parte diciamo del cliente, certo, certo, e una grande pazienza per le prove, per l'attesa. Esattamente. E quindi questo capo veniva goduto alla fine e poi alla fine veniva conservato. Ma c'era perché aveva un valore. Aveva un valore. C'erano addirittura delle sartorie grandissime una volta, adesso. Adesso ci sono delle boutique. Sì, no, noto però che c'è stata una indagine, mi pare, di Francesco Alberoni, noto filosofo, e anche un'indagine della CGA di Mestre, di Bortolussi, del famoso Bortolussi, che diceva che noi siamo in procinto di perdere praticamente, o forse abbiamo già perso, questi mestieri, questo artigianato di qualità, questa artigenialità. Se mi consente la Montabaro, del cui è, come dire, abbiamo è il suo come dire imprimatur, ecco. E però dobbiamo riprendere più presto possibile questa inventiva, quello che ha fatto grande la nostra nazione rispetto alle altre, o sbaglio? No, assolutamente. È solo che mi si consenta il dire. Sembra quasi che siamo gli unici o pochi più a parlare e dare voce a queste cose. Ma siamo in pochi, sì, a dare voce a queste cose, purtroppo. Io confido nei cari amici, anche nei cari amici che ci ascoltano, per dar maggiore voce e peso, chissà, ad un prossimo futuro, perché questo nostro piccolo sogno diventi grande realtà. A tal proposito mi sia consentito di citare un libro di un sociologo americano, Richard Sennett, che l'ha scritto nel 98 e sta diventando sempre più di stringente attualità. Si chiama L'uomo artigiano, dove si narra della stretta connessione tra la mente e la mano, tra il cervello, sì, e il cuore praticamente. Anche oggi ci sono settori praticamente dove va usata questa qualità, questa serie di qualità, queste capacità che sono intrinseche praticamente della nostra della nostra genialità, delle nostre capacità come italiani, diciamo, e come veneti in particolare, vorrei dire. Ma Il lavoro manuale secondo me è una grande risorsa, solo che se tu chiami un idraulico oggi lo trovi a fatica e lo paghi un occhio della testa. Falegnami, ce ne sono tanti, boh. Sono sempre meno. Si stanno estinguendo, l'impressione, e quindi bisognerà ritornare a questo. Bisogna ritornare a programmare l'artigianato di qualità. L'artigianato proprio. Che esiste, ma esiste, come dire, esiste, noi lo sappiamo, esiste nelle pieghe di una società distratta che dovrebbe però ricominciare a ripensarsi. Perché ci sono troppi diversivi, troppi svaghi, la gente. C'è troppa superficialità, io credo. Pensa a divertirsi, andare in ferie. Che cosa dice il nostro ospite? Beh, quel che si è detto, si è detto. E io spero sia stato anche ascoltato. E vorrei, non per concludere questo discorso, ma per dare, diciamo, un senso diverso di continuazione, di continuità, riferendomi allo spettacolo della campagna. L'uomo che cammina è l'uomo che sente, è l'uomo che pensa, è l'uomo che sa, è l'uomo che vede. E in estate vede queste piccole piantine che in primavera erano state una sorpresa, oggi diventate molto più forti, meno delicate, ma ugualmente buone da mangiare. Però con una parvenza diversa, quasi a gridare la loro forza, sapendo che fra qualche giorno ci sarà anche la loro fine. E allora noi li vediamo quando passiamo, questi bruscandoi, ormai non più bassi, ma bei, tacai, rampegai, intorcoeai, alti, alti, alti, sui pai. Ma ci sono ancora i bruscandoli adesso, ma saranno più sui pai, sui alti, pai, alti, alti, alti, alti, rampegai, intorcoeai. Bella sta immagine. Però poi ci sono anche i frutti che cominciano. Eh sì, adesso le ciliegie. Io amo le ciliegie. Ecco. E serese, come dicono da noi. Esatto, le ciliegie, immagino fra uno. Poco le albicocche, le pesce. Traduco per i nostri del territorio, Armini. Serese, armeini, persichi. Che tante volte ormai andiamo dal fruttivendolo e diciamo: scusa, Gaio, do chi de armeini? E ti guarda stralunato perché dice: non ne abbiamo, abbiamo solo albicocche. È che adesso abbiamo. Questo è il principio della fine. Abbiamo tutto e sempre. Ci sono ciliegie per fine a Natale, non so da dove vengono. Sì, ma no, qui è Marostegana. Ah, no. Esattamente. Beh, parte che ecco, io... quello del chilometro zero di cui si parla e si parla spesso, eccetera. Questo ritornare alla sobrietà, mi pare che ne abbiamo già parlato, sì. Di sobrietà, forse è un termine che andrebbe maggiormente evidenziato. Volevo avvisarvi di una cosa. Cioè? Che fra poco arrivano anche i fichi di prima fiora. Ah, ma non è presto, no? I fichi di prima fiora. Ah, i propri primi. 10 giorni, 15 al massimo e saranno pronti. Bene, sono dolcissimi. Io comunque, come frutto estivo, preferisco la ciliegia. Anche se ha poca vita, cioè quanto durerà, un mese la ciliegia? Sì, sì. Non sì. Di più. Diciamo con le precoci e con le tardive. Ecco, più sì, o meno, dai. Comprendendo tutto, i duroni, eccetera, più, sì. Più o meno hanno un mese di... Si impara ad apprezzare, chiaramente, andremo, in quel tempo, in andremo quel alla festa delle ciliegie, così le mangeremo a volontà. Adesso ci fermiamo un momento per un'altra canzone. Oh, questa canzone... è nata, cantata in lingua francese da Adamo, che secondo me è molto, molto, molto più musicale, e in francese è la Valse de Thé. Io ve la faccio ascoltare in italiano, da sempre da Adamo, come Valzer d'estate. Il giorno ha spento la luna, si svegliano le bianche vele ed il sole comincia a ballare sul mare al passo di un valzer d'estate. La spiaggia è un letto da re. Adagiati vicino a me. È così bello sognare, camminare nel cielo sul filo di un valzer d'estate. Sogno d'amore e il valzer d'estate che ti regala me. Amanti del mondo, ma è la loro amica, sorride e sospira, la colpa è del valzer d'estate. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. Allora, qualche reminiscenza così di proprio di bambino. Mi fa ricordare che un tempo si trebbiava, a Mieti Trebbia praticamente nelle campagne nostre, così si trebbiava di notte. Qui singioni, esattamente. Cioè, e Landini a testa calda. Traduco, cinghie molto grandi, molto esatto. Lunghe. Era un rituale straordinario. In che mese era la trebbia? Giugno, luglio? In giugno. Sì, in giugno per la mietitura del grano, cioè del frumento. Verso San Piero, Paolo. Da noi sì. I Pereti San Pieroi e i Poeastrei San Pieroi, che erano i primi polli novelli che si mangiavano per l'occasione della mietitura del grano. Grande. Quando c'erano tante braccia che davano un apporto, diciamo, alla famiglia. Quando chindava opera, si diceva una volta, perché ci si scambiava praticamente la mano d'opera tra famiglie, quando c'era ancora la solidarietà tipica della civiltà contadina, cosa che oggi abbiamo dimenticato. Non contrattuale. Si sapeva che c'era bisogno e si andava volontariamente, spontaneamente, anzi, si sollecitava. Se hai bisogno, io vengo. Sì, adesso vengo, ma questo lo dico per far capire qual era lo spirito di un tempo. E in mezzo al formento, quaglie, questo piccolo ma formidabile volatile che, dicevano, provenisse dalla lontana Africa, fin qui a migrare e a rallegrare le nostre giornate operose in campagna con il loro canto. Pri pri pri pri pri pri cior, cior, cior. Vanno così le aquile? I maschi, le quaglie, sì. I maschi, cior, cior, cior, cior, mamma. E pri pri pri pri pri pri le femmine. Ah. Allora quaie, sera, sora hai una granda in cresar e sotto erba tanta a posti e sui posti vodi Spagna bea maciara e in mezzo guaie pri pri pri pri pri pri. Che belle immagini della campagna. Sono immagini che danno proprio, che sintetizzano praticamente sì, un'epoca che sembra passata da millenni ed è così vicina a noi. Cerchiamo di fotografare e di dipingere con le parole. Certo, esattamente, certo, esattamente. Quello che era. E questo volta. È lo scopo, anche perché possa essere, come dire, trasmessa alle giovani generazioni che, diversamente da quanto si pensi, non sono indifferenti, ma se trovano degli interlocutori validi solo non sanno e quindi hanno necessità, perché nessuno nasce imparato. Ed è quello che io dico così quando si parla di digital divide oggi, cioè di divario digitale, del fatto che molti non sanno utilizzare i mezzi e delle nuove tecnologie, eccetera. Allora io dico: attenzione, esiste un divario che è ancora più grave e del quale non ci rendiamo conto, che è il memory divide, è il divario della memoria, cosa che i giovani non possono avere, che noi, che abbiamo un'età diversa, abbiamo stratificato, quindi siamo noi in vantaggio rispetto ai giovani e non loro nei nostri confronti. Scusa Antonio, io voglio farti una domanda. Sì. Perché siamo in Italia e usiamo sempre questi termini inglesi? Questi termini inglesi perché diciamo che l'inglese è diventata una lingua franca, e però l'informatica praticamente ha un suo slang, ha un suo gergo, eccetera. Io sono stato recentemente a una riunione e si parla quasi esclusivamente in questi termini, ma non è vero che non serva l'italiano. Noi dobbiamo anzi ripristinare l'uso dell'italiano, incentivarlo, perché bello, è quello, così... no, non solo è così bello, è quello che ci consente di avere maggior apertura mentale. Io che devo ancora imparare bene l'italiano, quindi pensate quanto distante sono da altre lingue, non è che rivendico, è una constatazione, tutta la mia ignoranza. Non è una questione di ignoranza. D'estate però qualcosa nel tempo ho imparato lo stesso, fra parentesi, divagazione. D'estate c'è anche un'altra in campagna, un altro evento fondamentale, il far fieno. Il fieno. Cioè tagliare l'erba, questo succede due o tre volte se la stagione è propizia durante l'estate. Il tagliare l'erba, essiccarla e poi darla alle per monche. Fare diciamo l'approvvigionamento invernale, sua meda, no? Meda. L'approvvigionamento invernale per le mucche, per i cavalli, sì, per quello che è, per le capre, eccetera, eccetera. Io mi divertivo a buttare dentro l'erba alle mucche, ecco. E a proposito del far fieno, da noi in dialetto fen, fen, esatto. E questo fen, siccome il nostro dialetto varia da stradina a stradina, nel senso che da zona a zona, no? È così variegato di termini, di inflessioni, di, ecco, che la stessa parola alle volte ha più significati. Esatto. Per esempio fen può voler dire facciamo, fieno, ma anche facciamo. Sì. Fen, e a esatto, proposito sì, di questo, una brevissima poesia che un po' gioca su queste due su queste due definizioni, su questi due termini. Fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, ma non l'aven mai fatto. Tipo sinistra piave, diciamo, ecco. Sì, sì, sì, di fatti parlano molto, così. Molto molto simpatico, e queste differenze sono straordinarie effettivamente. Ma se tu vai proprio a qualche paese di distanza da qua, parlano già si parla in modo molto diverso, e questo è un arricchimento, non è una cosa. La mia poesia ricordando l'età giovanile con la campagna, il fieno, le ragazze e le tempeste ormonali. Esattamente. Eh beh, quelle sono, diciamo che passano i tempi, i secoli, eccetera, però diciamo la natura umana rimane quella, evidentemente. Una volta la giovinezza la si viveva, penso, molto più serenamente. Ma serenamente, perché non c'erano molti stimoli, chiaramente uno si adattava a quello che c'era, cioè c'era questa serenità d'animo, praticamente questa condivisione, si divertiva con poco. Ci si accontentava veramente di poco. Ma anche perché, se mi è concesso, tutto veniva assolutamente conquistato. Esattamente. Sì. Niente era gratuito. Niente era facile come oggi, effettivamente. E neanche dovuto, insomma, perché se si poteva, bene, se no si lasciava perdere. Adesso le cose sono un po' diverse. Sono diverse, chiaramente ogni epoca evidentemente non può essere demonizzata, però effettivamente oggi gli stimoli sono moltiplicati e quindi chiaramente non si possono dare, come dire, indicazioni diverse, occorre capire il proprio tempo. Allora, ci fermiamo e ci ascoltiamo un'altra canzone, è sempre in tema d'estate, Le rose sono rosse, di Johnny Dorelli. Un giorno desti a me un libro in prestito, su quelle pagine io scrissi allora: le viole sono blu, le rose rosse, amor, dolce la musica, ma non come sei tu. Ci ritrovammo ancora e sulle pagine tornai a scrivere con tutto il cuore. Le viole sono blu, le rose rosse, amor, dolce la musica, ma non come sei tu. Fini la scuola ed io lontano me ne andai. Tu mi scrivesti ed io non ti risposi mai. Le viole sono blu, le rose rosse, amore, dolce la musica, ma non come sei tu. Eccoci di nuovo in studio. Allora, una brevissima poesia che poi salutiamo. In estate non dimentichiamoci dei temporali. I famosi temporali d'estate. Sì. Allora, è intitolata Rondini e dice: Sisie, cioè le rondini, basse a svoar, rondoni in sciapo a sigar, fra poco se qual temporal. Che bella. E anche qui è una sintesi proprio della preparazione, così. E il fatto è che noi abbiamo poca capacità di ascolto. Effettivamente un tempo, un po' come gli indiani una volta appoggiavano l'orecchio alla terra e ascoltavano, rumori provenienti da molto molto lontano. Adesso sentiremo e se abbiamo, effettivamente non abbiamo più quella capacità. Io sono del parere comunque che ogni esperienza passata non è, come posso dire, da buttare e nemmeno queste qua adesso, è da dimenticare, insomma, anzi, certo. Questa operazione di, che non è di nostalgia, perché una volta era durissimo, erano durissimi i tempi, non è nostalgia, ma semplicemente rientrare in noi stessi, rinsavire, io credo che sia fondamentale. Cosa ne dice il nostro ospite? Sono perfettamente d'accordo, è una vita che mi spendo in questa direzione, e un saluto a tutti gli amici con sani, perché solo se restiamo sani forse qualcosa potremo fare. Tiziano, noi ti ringraziamo. Grazie mille. Chissà, a un presto arrivederci, un presto ritorno. Non poniamo limiti alla provvidenza, dai, vero? Grazie. Allora, grazie a tutti. Saluti, Antonio. Un saluto cordiale a tutti gli amici e le amiche, soprattutto vicini e lontani. Alla prossima volta. E allora con te, con Tiziano e con il nostro regista Eddie Daici, diamo a tutti una serena notte. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.